24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. Presidente Boldrini e del suo ufficio di Presidente della Camera supereranno abbondantemente il milione di euro. È la peggior Presidente della Camera della storia per quanto mi riguarda. L'ipocrisia, il nulla fatta donna, così almeno lei è contenta perché c'è da parlare di uomini e di donne. Insulta, a chiusa volgarità rispondo con un sorriso, un gran bel sorriso. A me non interessa la politica che si basa su appunto la volgarità, sugli insulti, questa la lascio fare ad altri, a chi non ha idee, perché solo chi non ha idee fa ricorso agli insulti. La ruspa è agricoltura, è campo, è pulizia, è serenità. La casa abusiva va rasa al suolo. Poi la Boldrini dice, non si dice radere, usiamo il verbo depilare, non so, sistemare, appianare, tranquillizzare, riequilibrare. Madonna, questi qua che... Salvini la riattacca dicendo, anche se si offende, io ribadirò il concetto delle ruspe che radono al suolo i campi rom. Io ribadisco il concetto che non mi interessa la politica dell'insulto e della volgarità. E c'è un... pagina Facebook che si chiama Matteo Salvini figlio di puttana, dove me ne dicono dietro di tutti i colori, ma siccome non mi danno dello zingaro è lì, dove possono tirarmene dietro di ogni. Io ci rido, però se vogliono rubarci anche il senso delle parole, il clandestino è clandestino, l'immigrato è immigrato, lei è lei, io sono io, il Milan è Milan, l'Inter è l'Inter, la ruspa è la ruspa. Soprattutto, soprattutto, Palumbo. Vabbè, dai, non esageriamo. Prova a girare De Jong. Vabbè, ma... De Jong ha girato inutile, con deviazione dai, di tasca. Pareggino inutile. Strameritavamo la vittoria. Pareggino inutile. Vabbè. Comunque, soprattutto il Milan, il Milan, eccoci qua, cari ascoltatori, con sommo dispiacere per i tanti gufi e grande piacere per pochi, sono tornato, sono qui all'inizio della settimana decisiva, ma come si dice, 102esima? 102esima? 102esima? Non lo so, 102, settimana decisiva numero 102 per la riforma elettorale e l'abolizione delle province. Eccoci qua, sono le 6:35 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori. Stavo meglio a Sharm el Sheikh, ve lo dico così. Ancora Bonaventura, ancora primo palo, la prende Palumbo. E dai, un pareggino, ma Young! Un pareggino con la Sampdoria, cioè stiamo a esultare per un pareggino, siamo veramente conciati malissimo. Allora, poi sono tornato e ho scoperto che c'è un tesoretto, 1.600.000.000, e tutti questi, a fare questo gioco ozioso, a chi lo daresti, a chi lo... Basta, la domanda classica alla quale rispondono gli italiani, a chi dareste questo tesoretto, è solo a me. Ognuno direbbe a me. E quindi io faccio un appello. Scriveteci, cari italiani, al 349-238-6666. Voi quanto avreste bisogno di questo tesoretto? Non siete generosi, eh? Cioè, volete due rate del mutuo, chiedete 1000 euro. Volete fare un regalo all'amante, un 5-600 euro. Pagare le tasse all'università ai figli, chiedete 3-4.000 euro. Scriveteci di quanti soldi avete bisogno di questo tesoretto. Dai, noi mettiamo una buona parola a Correnzi, eh? 349-238-6666, il motivo per cui volete questo tesoretto e quanto, di quanto vi accontentate, dai. Allora, voglio subito chiederlo anche ai miei amici. Federico Novella, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, ci sei mancato moltissimo. Sei un gufo falso. No, è vero. Poi lo mette in mezzo, ecco, del sinistro, rete, Mauri, Parma in vantaggio. Onore al Parma, dai. Guarda questi arroganti juventini che tanto sanno che lo scudetto è già vinto e possono anche... Ma dai, che bella favola, la favola del weekend, degli ultimi che vincono contro i primi. Vabbè. Davide contro Golia, va bene, dai, va bene, onore al Parma. Vabbè, Federico Novella che conduce Mattino 5 dalle 9, tra poco ci dirà quanto chiede a Renzi di tesoretto e per che cosa, anzi vuoi dircelo subito di quanto hai bisogno? Sì, no, allora diciamo... I pannolini di Ottavia, tranquillizziamo gli italiani, il tesoretto non c'è. Non c'è ancora, è una previsione, è una stima. Porca miseria. Forse ci avanzano 1,5 miliardi, ma siccome quando il governo fa il DEF, questo documento qua, stime le sbaglia sempre. Non vi illudete, tesoretto. C'è già distrutto tutto. Ragazzi, scusate il bagno di realismo, ma è così. Ma no, ma è terribile. Vabbè, quindi tu quanto chiedi? Io? Non lo so, che dici? Non so neanche, ma non lo so. Ma non lo so, ma io lascerei tutto. Bravo, finalmente. Mangino tesoretti. Il popolo mangi tesoretti. Ma sì. Voglio subito chiederlo anche a un altro, Alessandro Robecchi, che saluto. Buongiorno, Alessandro. Buongiorno a tutti, bentornato. Grazie. Devo fare questo piccolo momento, spazio pubblicità, come cantava Vasco Rossi. Devo farlo. No, devo farlo perché a Sharm el Sheikh mi ha molto allietato leggere l'ultimo giallo, perché è un giallo, romanzo. Racconto di Alessandro Robecchi, Dove sei stanotte, ambientato nella Milano dell'Expo, degli eventi, guai chiamarli feste a Milano, sono eventi. Eventi. Ma c'è la Milano delle periferie, dell'Expo, è un bel libro. Allora compratelo. Grazie. No, devo dire, dispiace di un interista dirlo, ma è un bel libro e compratelo. Dove sei stanotte? Scrivere i libri tiene lontani dal calcio, quindi bene. Esatto. Tu, caro Alessandro Robecchi, di quanto hai bisogno? Quanto ti sentiresti? Non lo so, guarda, vado oggi a cambiare le gomme della macchina, quindi poi ti mando la fattura. Mandi al presidente del consiglio. No? Senti, adesso non esageriamo. Tu avanza una richiesta. Questo, però, ma scusate, ma se tutte le volte che c'è un'elezione spunta fuori dei soldi da distribuire, il bonus 80 euro, andiamo a votare ogni due mesi. Ma perché non votiamo tutti i mesi? Effettivamente. Comunque, vabbè, quindi questo cambio gomme. Diciamo, bella coincidenza. Diciamo fuori dei soldi solo quando si vota. Vabbè, ma tu sei il solito gufo. 400 euro, dai, cambio gomme. Quant'è? 400 euro? 300? Beh, no, un po' di più. Va bene, ne cambio due, dai. Vabbè, comunque ci chiedono subito 80.000 euro per il mutuo, il solito esoso. 11.370 euro per far pari con l'IMU del capannone chiuso per crisi, ci chiede questo ascoltatore. 100.000 eurini, sistemo tutto, Giulio o camionisto, in onore della Boldrini. Poi portare le pensioni minime a 1000 euro, che vuol dire questo? Vabbè, niente, dai, apriamo il Parlamento, su, che qua dobbiamo chiedere adesso anche capire di che si parla. Allora, avete visto questa di sfida Salvini-Boldrini? Ti piace, Robecchi? Tutto quello che dice Salvini è destituito di ogni... Eccola. No, a parte che c'ha un nome e un cognome quella roba lì, nei paesi civili si chiama istigazione all'odio razziale. Ah, addirittura. Addirittura. C'è novella arrabbiato, Come dice Matteo, ce ne faremo una ragione. No, quello sicuro, però è una questione, ma parlate ancora di radere al suolo i campi rom, quella roba lì. Di quello un po', sì, si è parlato. Ma guarda, quella roba l'ha detta a Mattino 5, dopo aver visto una intervista a due minorenni rom che hanno confessato di portare a casa 1000 euro rubando portafogli in metropolitana. 1000 euro al giorno, al giorno. Sì. Lui si è arrabbiato e ha detto questa cosa di radere al suolo i campi rom. Sì, lui sempre sfumato nei giudizi, Salvini, sappiamo che però, a me sembra più una questione di parole, ti dico la verità, perché alla fine non ho trovato uno solo che non voglia chiudere i campi rom. Se puoi chiudere i campi rom, poi alla fine chiaro che il concetto è questo, altro. Effettivamente Alessandro, c'è chi vuol chiudere i campi rom magari spinto da una tua idea, a dire è indegno che vivano in modo così poco dignitoso, e c'è chi vuole chiuderli da leghista, ma poi il concetto non è lo stesso. Cioè, ti pare normale, civile, che possano esistere dei campi in cui non ci sono condizioni igienico-sanitarie? No, ma se fosse per me, io li integrerei, gli darei una casa, eccetera, eccetera. Dopo, come bisogna fare con quelli che non hanno una casa, come i paesi civili fanno con quelli che non hanno una casa. Sì, ma iscrivendosi alle liste però. Dopodiché, però, essendo una popolazione in gran parte nomade, i campi rom ci sono in tutta Europa, non sono come quelli in Italia, soprattutto hanno una certezza stabile, cioè i bambini vanno a scuola e questo aiuta l'integrazione, mentre invece se tu ogni sei mesi vai con le ruspe a tirar giù i campi rom, come è successo anche in civilissime città come Milano per esempio, sradichi continuamente quella gente, quei bambini, quelle donne, eccetera, eccetera, l'integrazione non la farai mai. In realtà, spianare i campi rom con le ruspe è il modo migliore per crearne altri, di avere sempre dei campi rom. E quindi, però, attenzione anche questa cosa: un capro espiatorio. Va bene, però, attenzione anche questa cosa: dare le case, perché sai, gli italiani vorrebbero avere le case, cioè si mettano in lista come tutti. Io prima di dargli le case andrei a vedere quanto guadagnano, come si procurano lo stipendio, se pagano le utenze della luce e del gas, se fanno tutte queste cose. Come allora, tutti i normali cittadini. Allora, vi racconto un aneddoto. Il 25 aprile di un paio di anni fa a Torino c'era la festa per la liberazione e mancò la corrente, e il campo rom di Torino fornì i suoi generatori per aiutare la città di Torino a cui era mancata la corrente, per dirne una, diciamo. Quindi, allora, è come se io beccassi un assessore che si è preso la mazzetta e dicessi bisogna radere al suolo tutti gli assessorati. L'assessorato. Vabbè, però dai, che molti vivano così. Oggi, allora permettersi dei rom. Tu sei d'accordo con quello che scrive Vittorio Feltre? Capisco che già la frase ti infastidisce. Te lo dico subito, no. Oggi scrive sul giornale ai bambini, i bambini che vanno a rubare dei rom, ci saranno 1, 2, 3, 10, toglierli subito ai genitori, come si farebbe? Io sono d'accordo, non saranno tutti così, non sono tutti ladri, ma andiamo a vedere. Il problema è che la polizia, la guardia di finanza, non ci entra nemmeno in questi campi, nella maggior parte di questi campi. Per vedere se le case sono abusive, per vedere come fanno a permettersi a vedere. Abbiamo finalmente scoperto il problema italiano. I campi rom. Pensa come staremmo bene, i campi rom fanno figa per tutti. Io mi fido di Salvatore Buzzi di Roma Capitale, di Mafia Capitale, che dice in Italia, intercettato, in Italia faccio più soldi di Roma che con la droga. È chiaro. E con l'immigrato. Certo che c'è sempre un business. Poi sono gli italiani che ci mangiano. I ladri sono sempre, ma c'è sempre qualcuno che ruba più di quello che viene pizzicato. Milioni di soldi pubblici forse pesano di più di qualche chilo di rame. Tra l'altro c'è un ascoltatore che mi chiede: avrei bisogno di 20.000 euro per oggi. Ecco, forse non so, facciamo una richiesta urgente per questo tesoretto, ma 20.000 euro per oggi forse è un po' troppo. Chi mi chiede 150 milioni per comprare Cristiano Ronaldo alla Juve, caro Luca, non ti rispondo neanche, se non con un insulto che però tengo dentro di me nello stomaco. Tra l'altro Salvini è molto sfumato nell'ultimo. Sentite, ieri era al Giambellino, un quartiere di Milano, a volantinare, e a un certo punto incrocia, credo, una banda e intona "Oh mia bella Madunina". Andre, svolantiniamo un po', se no si domandano che cosa stiamo facendo. Prendiamo un po' di vola e buongiorno. L'unico che pensa per italiani, l'unico. I vola sono i volantini, credo. Prendiamo i vola. Cosa facciamo? Mia bella Madunina. Incrocia la banda, ma per caso è si è sfumato, no! Tutta ti hai fatto sentire, grazie. Ma perché volevo il finale del Salvini che un tempo avrebbe detto finendo Terun. E invece no, è un Salvini che si sta, come dire, imborghesendo. Guarda, io che sono milanese, doc, direi che la definizione di Salvini era quella che davano i nostri bisnonni: gran, grosso e ciula. Gran, grosso e ciula. Per chi è di Battipaglia, grande, grosso, e come si traduce ciula? Mago. Coglione andrebbe bene. ecco, cioè, beh, direi che a Battipaglia hanno capito, anche Salvini ha capito, anche Novella ha capito, e andiamo al traffico che è meglio. L'unica cosa che è bella di questa trasmissione è il traffico, mandalo, vai. 24 mattino. Bravo Renzi, avanti così, non hanno fatto un cazzo fino adesso e ci hanno sempre rubato i soldi. Adesso con la metà dei soldi finalmente faranno quello che devono fare. Per fare una buca sono in quattro, uno dirige, uno scava e gli altri due guardano se la fa bene. Comuni, svegliatevi, mandateli a lavorare, fateli lavorare! Io non so che cos'è una zappa, signori, telefonate a Roma, a Montecitorio, e parlate con la presidente della Camera e vi spiega che cos'è una zappa. Matteo Salvini che dice: io raderei al suolo tutti i campi rom. Mamma mia, ma come si permette un politico di dire queste cose orribili, che poi, parentesi, è il pensiero che la maggior parte degli italiani. La Juve di Allegri quest'anno ti fa il triplete. Alessandro, questo è un messaggio, diciamo una sorta di mantra gufatorio, per cui mandalo in onda, mi raccomando. Max Allegri, dai, dai, dai che ce la fai, dai, dai. Torna, sta casa aspetta te, torna. Beh, te lo dico subito, caro Milan, sarebbe l'ora che tu ti levassi di torno e tu lasciassi Anna migliorati. Sai che bella settimana che abbiamo passato, con discorsi seri, ragionamenti seri, non sempre quelle sghignazzate di quelle quattro galline che ti vengono intorno. Non lo so, sono Alessandro Robecchi e Federico Novella, le due galline oggi abbiamo qui. Ti è andata male stamattina. È andata malissimo. Allora, vabbè, ma ricordato dall'affetto dei suoi cari. Sì, esatto, scomparve, si inabissò. Allora, caro Federico, ma sì. Vabbè, tu ci hai già detto che questo tesoretto non c'è, hai un po' buttato dell'acqua sul fuoco. No, dei mi sembra che il governo ha buttato un bello spot, anche perché da sempre il DEF non ha mai contato nulla. Serviva qualcosa che attirasse un po' l'attenzione e hanno tirato fuori dal cilindro il coniglio del tesoretto. Ma guarda che Padoan dice, guarda, senti qua Padoan ieri al TG1, il ministro dell'economia. Ministro, si parla di questo bonus da 1.600.000.000 di euro, ci sono varie ipotesi tra cui quella di un aiuto alle fasce più deboli, ai poveri. Ci sono appunto varie ipotesi, ma vorrei ricordare che avere una distribuzione del reddito più equa sostiene la crescita, questo lo sappiamo da tempo, è sicuramente uno dei punti su cui il governo sta riflettendo. Cioè, che ha detto? Non Robecchi, tu hai capito? C'è sto tesoretto. Ha detto che sta riflettendo. Sì, ho capito, ma c'è sto tesoretto o no? Ma c'è o no sto tesoretto? Mi sembra di sì, lo vuole dare ai poveri. Sì, ma c'è. Dai, Milan, come sono quelle cose lì? C'è il tesoretto, poi così si va. C'è, sono le prime pagine di tutti i giornali, tutta Italia discute. Ho capito, ma se tra 10 giorni non c'è più, tra due mesi, il tesoretto, siamo sbagliati, non è 1.600.000.000, sono 800 milioni, no, 400, no, 250, sono 120. Lascio dopo. Alla fine finisce. Oh, ci dovete 100 milioni. Ma anche fosse 1.600.000.000, essendoci in Italia, come dice l'Istat, 7 milioni di persone in povertà, fanno alla fine 20 euro. 20 euro e quindi è la mancia. Vabbè, ecco, per cui dire che si soccorrono le fasce deboli della popolazione con 20 euro, con 20 euro è vergognoso. Cioè, passate a casa Robecchi, vi dà 25 euro e facciamo prima. Perché così è veramente una presa in giro. Che dici, Federico? Arriverà qualcuno fra 2 o 3 mesi e dirà: quei maledetti dell'Europa ci hanno detto che non possiamo spendere il tesoretto, oppure ci hanno detto che il tesoretto serve ad altre cose, non serve per i poveri. Daranno la colpa a qualcuno. Si trova sempre. Sì. Ma poi vorrei dire una cosa. Comunque, scusa, Anna da Treviso, aspetta, perché Anna da Treviso avrebbe bisogno di 10.000 euro per riscattare la pensione. Quindi... Però vorrei dire questo. Io glieli darei a Anna, comunque. Sì, vabbè, Anna... Però che senso ha vantarsi di un tesoretto di 1,6 miliardi quando poi contestualmente si tagliano di 589 milioni le ristrutturazioni delle scuole? Allora ve lo devo dire in conclusione, voi, e non so quanto questo vi faccia piacere, secondo me a Robecchi sì, a Novella pure, la pensate come Renato Brunetta. Robecchi, ma allora... grosse stamattina. Ma allora tu sei un Robecchi, sei un signor. Non ti va bene Feltri, non ti va bene Brunetta. Ma come si permette, Milan? Vabbè. La pensa come me. Il Brunetta del giorno. Ci mette adesso 1,6 miliardi. Un anno fa ci aveva messo gli 80 euro per comprarsi le elezioni regionali. È un imbroglione, è un venditore di tappeti. Tutti i giornali oggi lo certificano. Tanto non c'è, e questo è il punto. O se c'è, viene fuori da altre tasse. E quindi è un gioco delle tre carte per comprarsi voti, come Achille Lauro. Eccolo là, Achille Lauro era quello che dava una scarpa e poi no? Quella... È un dato di fatto che è un dato di fatto che sta roba viene sempre fuori prima delle elezioni. Eh sì, effettivamente la coincidenza è un po' sospetta. No, sospetta, voglio dire, un po' singolare, ecco, singolare. Ho detto... Era scappato, sospetta. No, volevo dire singolare. Chi ha detto sospetta? Novella ha detto sospetta. No, io ho parlato. Novella, hai detto sospetta. No. Allora, alle 9 che fai, Federico, che siamo in conclusione? Parliamo di sicurezza. Soprattutto il tribunale, immagino, e non solo, anche, non certo. Solo l'Expo. Va bene, allora io vi ringrazio alle 9 mattino 5 con Federico Novella e ovviamente anche la Panicucci e poi Robecchi, niente, no? lo ricordo ancora, compratelo questo libro, costa molto meno dei 20 euro del tesoretto, Dove sei stanotte? È un bel libro di Alessandro Robecchi, ciao, alla prossima. 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Sono qui, cari ascoltatori, debosciati miei, un grosso abbraccio alle 7:19 minuti, nel giorno in cui inizia la settimana decisiva numero 102 per la riforma elettorale e l'abolizione delle province. Dico così perché non abbiamo ancora capito se si dica 102esima o 102. Peter Bescapè sostiene 102. No, 102esima, 102esima. Però insomma, 102 seconda, chi lo sa? E sono questioni lessicali, inviateci la vostra risposta, cari professori, docenti, membri della Treccani, al 349-238-6666, così noi ci adegueremo. Allora, oggi parleremo di finanziamento dei cittadini e dei partiti. Che strano, aver scoperto che il 99,9% degli italiani non hanno destinato il 2 per 1000, cosa che si poteva fare e si può fare ancora, ai partiti. Ne parleremo con alcuni deputati che sono anche tesorieri dei partiti per capire come faranno ora. Tornano anche i nostri lavoratori oggi in finale di trasmissione. Scrivete la vostra mail a 24mattino@radio24.it se volete proporci un lavoro che vi appassiona, qualcosa che fate con amore e ce lo volete descrivere in 2 minuti, magari qualcosa che ci stupisca, un lavoro un po' particolare. Allora, intanto andiamo a leggere i giornali. In questo lunedì 13 aprile i titoli, intanto le aperture, il Sole 24 Ore apre su questa notizia che certo non mette di buon umore, d'altronde è lunedì, l'IRPEF corre più dei redditi. Tra il 2008 e il 2014 l'IRPEF è aumentata del 10%, mentre i guadagni dichiarati degli italiani in media del 5%, dunque la metà.

quanto avete bisogno di questo tesoretto e fate i parchi, eh? Non è che certo voglio tutto il miliardo, no, no. Volete sistemare un paio di tasse, un paio di rate del mutuo, le tasse da pagare, ditecelo, insomma, ho bisogno, che ne so, di 3.000 euro, 4.000 euro, 5.000, noi faremo una richiesta per voi al Presidente del Consiglio. Secondo il Ministro dell'Economia Padoan, ieri al TG1, il tesoretto a chi va? Sentiamo. Ministro, si parla di questo bonus da 1 miliardo e 600 milioni di euro. Ci sono varie ipotesi, tra cui quella di un aiuto alle fasce più deboli, ai poveri. Ci sono appunto varie ipotesi, ma vorrei ricordare che avere una distribuzione del reddito più equa sostiene la crescita. Questo lo sappiamo da tempo, è sicuramente uno dei punti su cui il governo sta riflettendo. Allora, si riflette su questo. Darle le fasce più deboli, dice Padoan. Io faccio una provocazione. Certo, a qualcuno farebbe comodo questo tesoretto. Farebbe comodo ai partiti. Ebbene sì, i partiti politici che sono sul lastrico, piangono miseria, devono licenziare i dipendenti, i creditori bussano loro alle porte. E d'altronde, da quando col governo Letta si è cambiato il finanziamento pubblico ai partiti, introducendo la possibilità di dare il 2 per 1000, sapete che è successo? Beh, il Sole 24 Ore lo ha evidenziato con numeri impietosi. Sapete quanti italiani nel 2014 hanno deciso di devolvere il 2 per 1000 ai partiti? 16.158 contribuenti su 41 milioni. Cioè, sono 4 contribuenti su 10.000. Ogni 10.000 in 4 appena hanno dato soldi ai partiti. In tutto hanno raccolto i partiti 325.000 euro. Il PD è quello che ne ha raccolti di più, 100.000. Un fallimento totale. Ah, lo dico subito, tra questi partiti non c'è, se no mi subissate di messaggi, non c'è il Movimento 5 Stelle, perché loro i partiti, i soldi pubblici li rifiutano, quindi questo va detto. Forse farebbero comodo a loro questi soldi, non so, lo chiedo a Maurizio Bianconi. Buongiorno Bianconi, come sta? Molto bene, grazie. Lei che è pur sempre tesoriere. E lo ero, io sì, lo ho è. Dato le dimissioni da tempo. Da tempo. Da qualche mese, sì. Non mi sembra una sciocchezza che questi soldi vadano ai partiti. Non lo so, però forse fanno comodo. Forza Italia, leggo per esempio che ha quanti debiti, scriveva il Fatto ieri, 610 milioni di euro incassati in 13 anni, ma è sul lastrico. Vuol dire che li hanno spesi male. Sì. Lei come tesoriere controllava qualcosa? No, io Forza Italia neanche un euro. Io ho fatto PDL. Il tesoriere del Popolo della Libertà, che chiude i battenti senza debiti. Senza debiti. Oh, quindi lei dice i soldi io li ho zero, insomma, senza debiti. Però, sì, però i dipendenti licenziati sono di Forza Italia o del PDL? PDL ha cessato l'attività, quindi ha messo in cassa integrazione i suoi dipendenti. Quindi zero debiti, però avendo cessato l'attività, è come un'azienda che chiude. È un'azienda che chiude in liquidazione, e non l'abbiamo fatta chiudere con crimi e facendo i salti mortali senza debiti. Pagheremo tutti entro il luglio del 2016, e 15 anzi. Sì. Tutti i debitori? I creditori, i fornitori, quello che c'è rimasto, abbiamo programmato il pagamento perché abbiamo l'ultima tranche di contributi previsti, e quindi niente di che. E quindi niente di che. Insomma, niente di che. Quelli che sono rimasti a casa, noi abbiamo fatto il nostro dovere. Ecco, voglio dire che in contesto panorama che lei ha dipinto, posso dire con un certo orgoglio che il Popolo della Libertà se l'è cavata bene. Ecco. Se l'è cavata bene. Vabbè, comunque i partiti sono sul lastrico. Voglio salutare anche un altro tesoriere di Scelta Civica, l'onorevole Gianfranco Librandi. Buongiorno Librandi. Buongiorno a lei, buongiorno e complimenti. Allora, voi quante, grazie, quanti soldi avete preso col 2 per 1000 questi del Sole? Poca roba, credo. 7.000 euro abbiamo preso. 7.000 euro. Sì. Nonostante che ci siamo impegnati, probabilmente non siamo riusciti ad arrivare ai nostri ai nostri sostenitori, e quindi 7.000 euro. 7.000 euro è poca roba, Poca roba, sì. 7.000 euro, quindi, cosa ci fate? No, 7.000 euro non ci facciamo niente, però Scelta Civica non ha debiti, fortunatamente, perché abbiamo fatto una gestione molto oculata, quindi abbiamo messo in rete tutti i nostri conti fin dall'inizio, abbiamo cercato di lavorare sulla trasparenza totale, sul contributo, diciamo, di privati, cercando già da prima di mettere in atto dei finanziamenti alternativi, perché ci aspettavamo questa cosa. E quindi diciamo che abbiamo anche adesso provocatoriamente proposto un avvicinamento dei parlamentari ai cittadini in modo e questo è interessantissimo. Questo è interessantissimo. Cioè, lei ha proposto questo. Allora, sapete cosa faccio? La traduco io in maniera grezza, poi lei ce la spiega meglio, Librandi. Sapete, sì, siccome non abbiamo soldi, non abbiamo raccolto molti soldi noi di Scelta Civica, mettiamo a disposizione i nostri parlamentari per alcune consulenze. Che ne so, qualcuno sarà esperto come commercialista, qualcuno sarà esperto dal punto di vista legislativo. Li mettiamo a disposizione, vediamo. Affittiamo, ma ci date, come dire, quanto costa un affitto di un parlamentare di Scelta Civica per un'ora? No, diciamo così, la cosa è una provocazione, perché noi di Scelta Civica abbiamo anche un problema di consenso e quindi vogliamo a riavvicinarci ai cittadini, sì, e cercando di convincerli a firmare il 2 per 1000 per noi. Poi, se queste consulenze specifiche, perché noi abbiamo nel nostro partito veramente delle persone molto preparate, risulteranno gradite ai cittadini, magari qualcuno sarà invogliato anche a fare un'elargizione gratuita, no? Spontanea. E quindi sì, però il mio sospetto, Librandi, è che non è che uno non voglia dare i soldi a Scelta Civica, è che uno non vuole dare i soldi a un qualsiasi partito. Sì, no, infatti purtroppo su 41 milioni, 16 mila, come diceva lei prima, vuol dire che i cittadini o erano distratti, perché se vogliamo con pochi soldi anche credo l'assenteismo sia dovuto a questo fatto, nel senso che i partiti non riescono più a comunicare con i cittadini, perché basta che guardiamo anche negli altri paesi, no? Prendiamo la solita Germania, sì, nella Germania c'è il finanziamento dei partiti ed è una cosa importante, viene dato 0,85 euro per ogni voto fino a 4 milioni di voti, quindi io personalmente cercherò di portare avanti questa soluzione. Cioè lei vuole tornare al sistema magari non vecchio dei 4 euro, no, quello era un troppo, po' no, meno, però lei vuole un finanziamento pubblico dei partiti. Io vorrei un finanziamento misto, un finanziamento come aveva cominciato a impostare Monti, un finanziamento agevolato, diciamo con una deduzione importante per tutti i cittadini o le aziende che vogliono contribuire a fare, sì, diciamo, vedere la loro avvicinanza ai partiti, e anche un aiuto da parte dello Stato, perché la politica l'articolo 49 sì, della Costituzione parla chiaro. Lo so, però su questo magari ci torniamo, perché so che ci sono state anche delle riunioni tra alcuni voi tesorieri e qualcuno, come raccontava il fatto, e dice ma come glielo diciamo ai cittadini che vorremmo tornare a un sistema che i cittadini hanno bocciato sonoramente per referendum, poi è rientrato dalla finestra e va bene. Però i cittadini hanno ragione, perché se noi facciamo tutta la storia del finanziamento ai partiti, appunto, ne vediamo di tutti i colori, a partire dalla legge Piccoli. È chiaro che ne hanno viste di tutti i colori, e sono, e forse questi dati sono emblematici di quanti pochi cittadini abbiano voluto dare il 2 per 1000. Però, onorevole Bianconi, torniamo da lei, perché lei ha sempre tuonato contro questa legge Letta, no? Sì, questa legge. Sì, sì. Devo dire prima di tutto, sì, che nessuna meraviglia sul 2 per 1000, era già stata introdotta tempo fa e ha dato i medesimi risultati. Infatti. E io glielo dissi anche a lei quando mi interpellò, che era una grande presa di giro. Primo, perché se lei non mette il partito al quale li vuol dare, nessuno è disposto a dare soldi che potrebbero andare anche a un altro partito. Se ce lo mette, la gente ovviamente non vuol far sapere di che partito è, e quindi va a finire che nessuno li dà. Poi è vero quello che dice lei, che la gente ai partiti i soldi non gli vuol più dare, i partiti sono iper sputtanati. Sì. Ma detto questo, però, mi permetto di dire al collega che io sono di diverso avviso dal suo. Io sono per un esclusivo finanziamento statale. Cioè, io dico, date 0,50 voto, 0,30 voto, decidete voi quanto, ma i soldi sono solo quelli, e al massimo possono essere degli endo, dei finanziamenti interni, cioè deputati, consiglieri regionali, ma mai soldi dall'esterno, perché io ho fatto il tesoriere troppo tempo, cioè per non società sapere... società è logico, ma tutti quando ti danno i soldi, ma ho capito Bianconi, ma non si sono aspetta, bastati tutti se, i soldi se, per, col sistema aspetta, vecchio no, mi scusi no, Bianconi col sistema vecchio società più forza. Stato non sono bastati i... ma per forza, perché è come il calcio la politica, cioè, non bisogna, mi scusi dottore, non bisogna essere superficiali, io volevo dire altro. Volevo dire che tutte le volte che qualche privato si avvicina a un politico, sì, o a un partito politico e gli mette una lira in mano, poi aspetta un tornaconto, è logico, ma non per forza illegale o illegittimo, ma quantomeno una captatio benevolentiae. Si legittima una zona grigia. Mi dice lei perché vanno tutti alle cene di Renzi e gli danno i soldi e a Berlusconi a cena ci va Michele che gliene prepara e basta? Perché non si conta niente. Chi è Michele? Il cuoco? Michele era il cuoco di chi? Perché Berlusconi i soldi ce li ha già e li mette lui. Berlusconi non mette più una lira. Ma come si è appena firmato già 90 milioni di fideiussione. Fa confusione. No. La fideiussione, sì, perché mi anche legge, la fideiussione di Forza Italia è una fideiussione antica che lui oggi paga, ma lui sono anni che non mette più soldi. Però scusi Bianconi, mi faccia capire, lei dice le società no per la captatio benevolenza, e capisco, ma se non sono bastati i tanti fiumi di soldi che sono arrivati da società, da Stato, da cittadini? Perché come il calcio, più ce n'è e più si spende. Se lei a calcio gli dà 1000, spende 1100. Se gli dà 1 miliardo, spende 1 miliardo e 100 milioni. Se gli dà 100 miliardi, spende 100 miliardi e 200 milioni. Ha capito come funziona? Se poi invece mette dai partiti personalità giuridica, mette i bilanci sotto stretto controllo, sia come fosse una società eccetera, vedrà che i soldi poi basteranno. Comunque, se volete intervenire, io non ho dato neanche il numero di telefono, 800 24 00 24. C'è chi mi scrive invece via sms: ho bisogno di 10.000 euro subito per pagare i debiti di questo tesoretto, ho bisogno di 30.000 euro di arretrati con Equitalia. Vabbè, noi ci spenderemo, cercheremo di mettere una buona parola con tutti, però un punto fondamentale è questo, se l'ho capita bene, la legge del finanziamento di Letta aveva accantonato, in previsione che questa sarebbe stata la cifra raccolta col 2 per mille, 7 miliardi e 400 milioni. È così Bianconi? Non è esattamente così, aveva accantonato una serie di somme, sì, tra le quali quella che dice lei. Anzi, per la verità 7 miliardi e 750 sì, milioni. Esatto, oltre a quella che dice lei, perché pensava che attraverso tutto una serie di ristorazioni che potevano prevedere i partiti, lo Stato avrebbe speso più di quello che pigliava il confiante, e quindi invece a questo punto non li ha spesi. E quindi c'è un tesoretto da 7 miliardi e 400 sì, milioni. Ma lei lo sa quanti tesoretti ci sono che non ci fanno vedere, li tirano fuori elezione per elezione. Ora, la volta avevano gli 80 euro, ora c'hanno il tesoretto, poi finiti le regionali, se c'è un'altra elezione trovano un altro tesoretto. Lo so, però, ma se tanto, non so, Librandi, a lei risulta che se c'è stato un accantonamento in previsione di quello che gli italiani avrebbero versato, poi hanno dato quanto, 300.000 euro, c'è un tesoretto, in teoria. Sì, dovrebbe essere così, però vorrei dire all'amico Bianconi che gli italiani non si avvicinano più alla politica proprio per quello che hanno fatto loro, perché nel 2002, con la legge 156, hanno portato il finanziamento dei partiti da 193 milioni a 468 milioni, così d'amblè, governo Berlusconi 2. Poi nel 2006 hanno, con la legge 51, hanno stabilito che l'erogazione, anche se c'era una legislatura che durava 6 mesi, 2 giorni, 3 giorni, 1 anno, doveva essere pagata completamente. Sì. E queste cose gli italiani ormai se le ricordano bene, quindi è inutile meravigliarsi di quello che è successo, dei debiti che hanno i partiti. Il problema è che bisogna essere trasparenti, come abbiamo fatto noi dal primo giorno di Scelta Civica, in tutte le spese, far vedere che i soldi non si sprecano. Poi in tutti i paesi del mondo ci sono le erogazioni liberali dei cittadini che dimostrano di essere vicini a un partito o un altro con delle regole, come in Germania non si può superare 3.300 euro, o anche negli Stati Uniti ci sono delle regole molto precise. Quindi sì, però Bianconi dice magari una società vuole in cambio qualcosa. No, però io vorrei tornare su queste cose del tesoretto, cioè, perché davvero adesso l'ho messa come buttad, ma ci sarebbero 7 miliardi lì che 7 milioni 750 mila euro, no, 7 milioni, sì, certo, sì, 7 milioni. Sì, dovrebbero esserci, quindi andremo a chiederne conto per cercare. Cioè, voi li vorreste per i partiti? No, noi dobbiamo convincere gli italiani, adesso quando ci saranno la dichiarazione dei redditi, a firmare per i vari partiti, o per Forza Italia, o per Scelta Civica, o per il PD. Ma non lo fanno, Librandi? No, non lo fanno. Diciamo che il fatto che i partiti magari dimostrano che c'è l'onestà, la serietà, che c'è un impegno per cercare di uscire dai problemi economici che ci sono in questo momento, al di là dell'ostruzionismo che fanno certi partiti in questo momento, l'Italia sta dimostrando che ha imboccato la strada giusta, quindi i partiti secondo me stanno riguadagnando un po' di fiducia, la fiducia nei confronti dei cittadini. Quindi io direi che quello che era la provocazione di avvicinare cittadini e parlamentari era proprio per questo: stringiamoci la mano, cerchiamo di parlare dei problemi del territorio e cerchiamo mi sa che sarà una lunga risalita però lei dice giustamente, uno cerca di fare un lento riavvicinamento. Italiani, credete in noi. Vabbè, ripartiamo tra poco, dai, dopo la pubblicità. Siamo con l'onorevole Librandi, Scelta Civica, tesoriere, e con l'onorevole Bianconi. Tra poco, state con me. Allora, cari ascoltatori, stiamo parlando di finanziamento pubblico ai partiti dopo che abbiamo accertato, grazie al Sole 24 Ore, che solo 16.518 cittadini su 41 milioni hanno presentato la dichiarazione al fisco l'anno scorso, hanno barrato la casella 2 per 1000 dando soldi ai partiti. Un disastro in negativo per le casse dei partiti. Siamo con l'onorevole Maurizio Bianconi, deputato di Forza Italia, ex tesoriere PDL, e l'onorevole Gianfranco Librandi, che è il tesoriere di Scelta Civica. Vorrei sentire Sabino da Lucca. Che c'è, Sabino? Che dice lei? Buongiorno a tutti. Nica. E buongiorno ai vostri ospiti. Volevo parlare di due punti. Prima cosa, il finanziamento ai partiti, che è stato già abolito con un referendum. E poi? Purtroppo loro comunque i soldi se li pigliano lo stesso, e i partiti dovrebbero essere finanziati con le tessere, con le loro tessere dei loro elettori. E non devono continuare a insistere con questi e continuare su punti che non... Però Sabino, non è, guardi che in Europa, come sai, invece in Germania, ci ha detto Librandi, 85 centesimi a cittadino fino a un massimo di tot milioni di voti, si danno i soldi, Loro ce li hanno i soldi, noi non ce li abbiamo. Noi abbiamo bisogno di stringere la cintura. Ai partiti non gliene frega nulla, ma noi ce ne frega. Quindi la Germania è sana, l'Italia no, e quindi niente soldi. Bene. Un'altra cosa. Sì. Il famoso tesoretto che ogni tanto ci danno il contentino, ci danno le briciole dall'Europa per accontentarci, ci fanno boccheggiare. Io vorrei sospendere i negoziati con l'Europa. Con l'Europa, io non voglio avere più nulla a che fare. Ma che c'entra in questo caso? Perché diceva che il tesoretto viene fuori dal rapporto deficit-PIL con l'Europa, se c'è mai questo tesoretto. Che c'entra l'Europa in questo caso? Come che c'entra l'Europa? Non riesco a capire. Perché il tesoretto viene fuori dal rapporto deficit-PIL, per questo lei dice l'Europa? Certo, l'Europa ci dà il contentino, ci dà le briciole, ogni tanto ci fa boccheggiare e dicono siete contenti, così rimanete in Europa. Ma se noi ci staccassimo dall'Europa, sospendessimo i negoziati con l'Europa momentaneamente, sarebbe la nostra salvezza. Va bene, questa è una teoria sua e di altri. La ringrazio, Sabino. Andrei a Mantova da Piero. Buongiorno Piero. Che non si sente. Roberto da Treviso, allora. Roberto, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo dire una cosa all'onorevole Librandi. Sì. Ma come pensa di convincere gli italiani a dare il 2 per 1000 quando sono 40 anni, 50 anni che fanno tutto l'opposto di quello che promettono? Allora, dice, lei mette tutto nel buco, magari l'onorevole Di Brandi dice Scelta Civica c'è da 3-4 anni, però, però il concetto, lei dice, non si fida dei partiti, Roberto. Tutti quanti, perché io sto seguendo, non sono un politico, ma sto seguendo la politica veramente da, da vicino, molto vicino. E tutto quello che hanno promesso la politica, adesso io li metto tutti insieme. Tutti insieme. Non hanno fatto niente. Hanno promesso, hanno fatto l'opposto. Vabbè, ma Roberto, è quello che si diceva, Librandi, insomma, è lo scetticismo di cui si diceva prima, racchiuso nelle parole di Roberto, magari che credo che rispecchia il pensiero di molti. Roberto e Rabino dicono, Sabino, non Rabino, è un nostro deputato, dimostrano qual è la, diciamo, la lontananza dei cittadini rispetto alla politica e anche la rabbia. Peraltro hanno ragione, perché come dicevo io prima, con le leggi che hanno fatto i governi precedenti, abbiamo speso 2 miliardi e 200 milioni dal 94 adesso per il finanziamento dei partiti. Probabilmente i cittadini sono arrabbiatissimi per come sono stati spesi in certi casi, e io dico e aggiungo per come sono stati gestiti, perché non accetto che ci siano dei partiti che hanno dei debiti o che devono lasciare a casa delle persone e che gestiscono male. Come diceva lei prima, con tutti i soldi che gli sono stati dati ci sono pure delle problematiche economiche, però io leggo l'articolo 49 della Costituzione e dico tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Quindi prima di tutto ci vuole la rappresentanza democratica, quindi a Sabino dico potrai essere arrabbiato, potrai voler togliere le, cioè, si possono creare partiti, ma perché devono chiedere soldi ai cittadini? Questo il punto è questo, non è che si possono creare i partiti, però lei provi a immaginare dei giovani oggi, tre giovani si riuniscono e decidono di fare un partito perché vogliono una rappresentanza loro. Come fanno da a quelli soli del Movimento 5 Stelle come hanno fatto? Ma guardi, quelli del Movimento 5 Stelle hanno fatto in tanti modi, dicono tante cose. La prima cosa, se vuole le dico quanti soldi fanno spendere l'Italia. Io ho calcolato, visto che mi diletto di economia nella mia vita, che il loro costo è 10.000 euro l'ora per ogni ora di ostruzionismo che fanno. Quindi se vuole facciamo un conto preciso di queste cose. Quindi loro frenano l'Italia con il loro ostruzionismo, perché è sempre no a qualsiasi provvedimento. Lei non si chiede, dall'inizio dell'anno dall'inizio della legislatura non siamo riusciti a fare una cosa colpa loro. Qualche volta noi abbiamo votato i loro provvedimenti, non mi risulta che loro hanno votato niente o che cerchino di trovare una non ho detto che è colpa loro, ha fatto il calcolo dell'ostruzionismo l'ostruzionismo è una cosa che costa ai cittadini italiani, perché costano i funzionari che stanno in aula, l'energia, il tempo perso, i provvedimenti che non diventano attivi, no? Dall'inizio della legislatura adesso avremmo potuto produrre il doppio dei provvedimenti. Che non è stato fatto, e questo non è un danno all'Italia. Sì, però mi faccia concludere con Bianconi, perché altrimenti sforo anche sul traffico. Bianconi, voglio da lei una delle sue salaci battute sulla questione Puglia. Ma che sta succedendo? Ma cosa sta succedendo? Lei con Berlusconi adesso non si risparmia, ne dice di ogni. No, non le dico di ogni, dico intanto all'onorevole Prandi che mi fa piacere l'entusiasmo sul quale si è gettato da buon neofita su questa battaglia che io ho condotto, in salutato ospite anche dalla Scelta Civica, cioè dai Montiani e da Monti. E poi voglio dire semplicemente che il Parlamento non è mai un costo, i grillini fanno quello che vogliono dentro l'ambito democratico, non scherziamo davvero. È partita anche una denuncia. Puglia è che Berlusconi ha mandato un proconsole per tagliare le teste e a finire gli hanno tagliato a lui le palle, è andata così. In che senso gli hanno tagliato le palle? Ma lui mette Adriana Poli Bortone candidata. È il nuovo che avanza, manda la Sardone a dire che mette giovani e poi chiama la Poli Bortone che ha 7-8 anni più di me. Cioè voglio dire che ha 73-75 anni. Sì, ma il tema è che pur di far perdere i fittiani, lei, Schittulli, cioè quelli di Fitto, le fa tutte Berlusconi. Cioè non... No, ma Berlusconi le fa tutte come quello che sta fa il Neo Tafazzi. Neo Tafazzi. Si prende il martello e se le dà sulle palle, perché se avesse capito che col patto del Nazareno si finiva di rovinare, come noi gli dicevamo, a quest'ora non farebbe quello che sta facendo. Invece prima si è rovinato col Nazareno e ora si rovina buttando fuori chi vorrebbe invece tenerselo dentro e fare un buon centrodestra. Vabbè. Ma purtroppo il Signore, quando decide di perdere uno, gli fa perdere anche il cervello. Eccolo là. Va bene, vi ringrazio Maurizio Bianconi, Forza Italia, e Gianfranco Librandi di Scelta Civica. Alla prossima. Lavoratori, chi non lavora. Ebbene sì, tornano i nostri lavoratori, gente che ci scrive una mail a 24mattino@radio24.it per raccontare il proprio lavoro, il lavoro che ama, la propria passione, ce lo viene qui a raccontare in onda se ci colpisce, se ci stupisce. Oggi devo dire che siamo molto stupiti e molto colpiti. Voglio salutare Paolo. Paolo, buongiorno Paolo. Buongiorno Alessandro Mina, buongiorno. Allora, Paolo ci ha scritto una mail che devo dire ha destato molta curiosità qui in redazione. Lo dico subito Paolo e ora lo spieghiamo agli ascoltatori. Allora, Paolo, andiamo per gradi, è praticante del mondo sadomaso. Esattamente. Nel ruolo di master, che poi sarebbe... Esattamente. Il dominante. Il dominante. E però Paolo ha fatto di questo un mestiere, perché ha iniziato a costruire attrezzi. Ora, adesso Paolo ci dovresti spiegare un po' di cose. Cioè, intanto, come ti è partita questa cosa di costruire attrezzi? Beh, per il semplice fatto che prima non c'erano. Cioè, c'erano degli attrezzi estremamente generici, visti su foto o altro, ma mai costruiti su misura rispetto alle esigenze di gioco di uno che ci vive, o che lo pratica. Cioè, per esempio, che attrezzo adesso, io purtroppo non pratico, quindi cioè, purtroppo... Ma guarda, io ho due linee di produzione in pratica. O ricostruisco attrezzi proprio storici, tipo rifacendo della Santa Inquisizione, chiaramente per un fine più ludico, oppure degli attrezzi proprio tecnici. La nuovi. Santa Inquisizione, che cioè, non so, quelli, gli attrezzi che ti tirano gli arti. Esattamente. Uno degli attrezzi che più funzionano è, per esempio, nel noleggio in vendita, è sono proprio un attrezzo con delle corde che tirano gli arti, che bloccano su un tavolino. Si chiama ruvida. Si chiama? L'ho chiamata ruvida. Ruvida di Tyson, è un po' un... Io sono Tyson. Ecco, sì, no, ecco, perché attenzione, c'è un sito internet, anzi, dillo, che così. Io so che questa è la cosa per la quale ci chiederanno più informazioni. Sì, so come funziona. Com'è il sito internet? www.taixo.com www.taixo con la x.com. Esattamente, sì. Cioè lì metti in vendita proprio tutti questi attrezzi artigianali. Vendita, noleggio. Bene. E accetto anche, cioè accetto, mi propongo anche come costruttore di attrezzi su misura, su idea di altri master o di altri praticanti. Perché è difficile trovarlo. No, chi, certo. Sì, ma è un settore, no? Che va. Sì, certo. Cioè, scusi, mi dà un attrezzo da Santa Inquisizione. Esatto. Poi sa, troverà il falegname sulla casa che ci metterà la cerniera del balcone. E quindi è chiaro che. Ma qual è l'attrezzo che va per la maggiore? Ma dipende dal tipo di gioco. Ultimamente ho fatto degli attrezzi per i fetish, per l'adorazione dei piedi, e quelli vanno. Una cosa che non io non pratico, che non fa parte del mio modo di giocare, però è molto richiesto. Comunque, quindi per i fetish, c'è scritto, pare è vero Paolo, sei diventato il più conosciuto costruttore del settore in Italia. Ma è un settore, voglio dire, è in espansione, è un settore di nicchia. È in forte espansione in rapporto ai numeri, quindi siamo ancora di nicchia, però in questo momento voi per il film, voi per il libro, voi perché magari i tempi sono maturi. Ah, il film, mamma mia, 50 sfumature, esatto, di grigio, eccolo lì. Una cavolata grande, però mio parere, però perlomeno pubblicità la fa il settore, insomma, via. Vabbè. Ma vivi di quello? No, Beh, sta diventando un secondo lavoro abbastanza importante, perché tra questo e la progettazione, i noleggi, quindi il resto del lavoro che avevo, le ditte sono chiuse perché facevo un altro tipo di lavoro presso ditte che in questo momento con la crisi praticamente in questo momento è il mio maggiore punto di vita. Attenzione. Allora Paolo, che dobbiamo dire? Un grosso abbraccio. www.taixo.com, anche questa abbiamo fatto, costruttore o affitta anche attrezzi per sadomaso. la frusta, Peter, sei un disgraziato. Dai, alla prossima, domani 6:30.